andata giù. E la Juve ha vinto lo scudetto. E quindi dobbiamo stare zitti perché hanno ragione loro. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drake. Perché oggi... Eccolo qui. Scusa, c'è venuta la paresi. Ah! Ah! Non so, questo qui no. Non è... Resta la Gaza, duro. Resta la Gaza. La Gaza del... non si capisce più niente. Gaza. Questo zoo della settimana. La parola zoo per radio ricorda una cosa che è meglio non ricordare, capito? Lo zoo, non bisogna parlarne troppo. Quindi Tiergarten. Pensate, per me non è neanche radio quella. Ah. Quindi stasera, Drago, ci si butta felici e trionfanti all'happy hour. All'happy hour, che però non esiste più, ormai lo come sappiamo. Come non esiste più? Non esiste più l'happy hour. Non puoi, dire, l'ha detto, non puoi dare Corriere queste notizie. Della sera, l'hanno detto, basta, l'ha scritto. Questo giornalista famoso che ha scritto l'articolo che tu hai stigmatizzato benissimo anche al live. Sì. Ti chiedo asilo a Torino, che cominciava sempre. Adesso via, spostiamoci sta questo bar, del venerdì, spostiamoci via, quest'altro bar, tutto per dire che... non si usa più fare tutti quei bei pranzetti le cenette, pranzetti a sbafo, e niente, a si sbafo. Mangiano solo le focaccine, le patatine e le olivine e quindi è finito tutto. E quindi stasera per il nostro happy hour del venerdì, portatevi voi gli stuzzichini da casa. Sì, come una volta si portavano a scuola le ciabattas, capito, il legno come per si chiamano le chupitas, le tapas quelle di Barcellona, tapas. Ma a scuola una volta si portava la legna per il riscaldamento. Ma cosa stai adesso dicendo? Si porta cosa sì, le olive alle piante, Tito, l'oliva in tasca, e porti e dai una patatina lì, Tito, un'oliva, quella col guscio. No, le olive non le vuole. Poi sono snocciolate, tra l'altro. Poi il guscio, il nocciolo, come si dice? Il guscio. Ma dal guscio delle olive parliamo di... Dei prelati. Dal guscio delle olive parliamo dei prelati. Sembri Moccia, praticamente l'italiano di Federico Moccia. Allora, a volte i prelati vanno controcorrente e diventano subito o antipatici o simpatici. Ma i prelati, proprio, preti, vescovi. Pelati. Ma no, ma io sto parlando di cardinali, vescovi, gente importante. Avevo capito i prelati. Allora, sì. Prendiamo il caso di Don Riccardo Pane, che è cerimoniere arcivescovile della Curia di Bologna. Eh? Cioè, cosa vuol dire? Non riesco neanche a dirlo. Cerimoniere arcivescovile. Io che ne so che cosa vuol dire dell'arcivescovado, l'arcivescovescovo. Può darsi, però non lo so. Vabbè, dai, vai avanti. Ma porca. Ma cosa c'è? Mi hai rovinato tutto. Ma draga, non si può dire quello. Eva, insomma, nella Bibbia ne ha combinate. Però se tu non me lo chiedevi, sembrava una cosa normale. Io davo per scontato di sapere che cosa fosse un cerimoniere arcivescovile. E anche chi ci ascoltava era convinto che io lo sapessi. Quindi nessuno stava a farsi tante domande. Adesso invece sembra tutta una buffonata appunto, sta roba. Vabbè, dai, sono tutto orecchie, Drago. Dimmi sta roba. No, tutto orecchi. Tutto apostrofo. Orecchie non va bene. Ma non va bene, no, ma infatti. Tito! Dai, capa, insomma, allora. Sto prete Don Pane. Don Pane. Sì. Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Dai, ha scritto. Allora, ha scritto un articolo su Bologna 7, che ma è il settimanale di Avvenire. E ha scritto cose un po' dure sui bambini e sugli animali domestici, due categorie che solitamente sono super protette nella vita di tutti i giorni. Cioè, ha scritto un articolo contro i bambini. Un attimo, non contro i bambini in generale, ma contro i bambini in chiesa. E anche contro i cagnolini in chiesa. Vabbè, ma ci sono anche gli alberghi, no kids, no pets. Sì, esatto, però scusa, queste prese di posizione sono molto impopolari tra i genitori, la gente che va in chiesa. Il povero Don Pane è sommerso dalle critiche. Ma Drago, vedi cosa succede a dire Don Pane al pane? Questo è molto divertente. Chiediamolo al bambino Alberto se cosa? Lui in chiesa schiamazza o sta, se molto sta attento. Ah, vabbè, scusa, il cerimoniere dell'arcivescovado. Bambino Alberto. Vabbè, ma io in chiesa non ci vado quasi mai. Perché? Perché i miei genitori sono atei, no? Ah, sono comunisti. È giusto, sì. Però c'è un periodo durante l'anno in cui ci vado spesso. A maggio, no? Maggio, adesso siamo perché maggio. Maggio è il mese della Madonna, no? Non nel senso che è una figata, nel senso che è un mese dedicato alla Vergine Maria. Vabbè, no? Allora, i tuoi sono devoti quindi alla Vergine Maria. Se no sarebbe un mese della Madonna, Madonna, non il mese della Madonna. Ma che devoti? È il fatto che io il pomeriggio, in primavera e estate, vado all'oratorio, no? Sì. Sì. E l'oratorio c'è la chiesa. E lì per tutto il mese di maggio, ogni pomeriggio alle 5, c'è la recita del Santo Rosario, no? Ah, che è una preghiera alla Madonna. Tu partecipi al Rosario? Volentieri. E per forza ci obbligano. Ma chi vi obbliga? Come vi obbligano? Sì, ci obbligano. Noi siamo in piena esaltazione da gioco, no? Giochiamo a pallone. Suona la campanella e gli sparge il panico, no? Tra e comincia a fuggi. Perché la campanella vuol dire, bisogna andare in chiesa. Sì. E però è troppo tardi, perché tutte le uscite sono bloccate. Ma come? Dai grandi. Sì. Sono i bambini grandi che non ti fanno uscire, no? E quindi vi costringono con la forza. Ma come con la forza? Ma voglio dire, sì, come i crumiri, no? Ma non è possibile, deve essere una cosa volontaria. I picchetti in fabbrica, capito? E nessuno osa ribellarsi, Quindi alla fine ci va, vai in chiesa, vai in chiesa e poi e cosa fai quando sei lì? Che allora, questo è il succo della questione. Prima di tutto tendo a piazzarmi nelle ultime file, no? Giusto, sì. Quelli sono i posti molto ambiti. Ah. E quindi non è come nel cosa pullman, riesci. Sei in chiesa, ma quindi praticamente non sei l'unico che non vorrebbe andare. Ma no, ma quasi tutti, no? Tu come ti comporti? Tu sei dentro in chiesa, come ti comporti? Stai tranquillo e reciti il rosario? Tutte le Ave Marie, ma che tranquillo, come facciamo a stare tranquilli? Entriamo dentro con l'adrenalina a mille perché stavamo giocando, no? Sudatissimi. Sì. Magari discutendo per un fallo o per una rimessa in gioco. E quindi tempo e voglia per il rosario? Non ce n'è, no? Rimessa in gioco in che senso? Quando vai fuori? Sì, quando fuori il fallo laterale, calma. Ma questo calcio non lo sa cos'è. No, non lo sa. Comunque, vabbè. Alberto, quindi tu non disturberai, insomma, lascerai in pace chi vuole pregare, perché ci sono i bambini anche che vogliono pregare. Ho capito, però scusami, in chiesa è bello anche fare un po' di casino, no? Ma no, ma non è vero. Quei momenti di silenzio, no? Solenni, e li ti scappa da ridere. Ha capito, è vero, un po' sì. Sì. E nessuno vi dice niente. E come no? Ci sono i grandi anche lì, Se alziamo troppo la voce o cerchiamo di sgattaiolare via, questi usano di dissuasori elettrici, no? Quelli che usano per le vacche per far andare. Ma addirittura i dissuasori elettrici. Ma no, ma quelli sono antistupro, non lo so. Beh, antistupro. Subito pensa, ma cosa vabbè, si usa, no? La polizia. Le donne hanno lo spray, il peperoncino e questo manganello elettrico che usano. Ma li vendono poi solo ai poliziotti il manganello elettrico. Vabbè, io già speravo in un manganello elettrico. No, niente. Comunque, mio papà dice che loro lo fanno perché in chiesa, no? Ci vanno sempre meno giovani. C'è una crisi, no? La crisi di. C'è la crisi. Eh sì, per tutti. E quindi devono bloccare le moraggieri fedeli, no? Comunque non è corretto, cioè non si può obbligare i bambini ad andare in chiesa. Anch'io sono d'accordo con te, stavolta. Non mi sembra neanche un modo efficace per avvicinare i giovani alla religione. Infatti, fuggi, cioè, scarafoni. È quello che dico anch'io. Appunto. Scusate. E pensate che a maggio questo psicodramma vabbè, adesso generale si ripete tutti i santi giorni. Tutti i giorni c'è la novena di maggio, come si chiama? La novena? Non so. Ma io fortunatamente ho trovato un modo tutto mio che tengo per me per sopportare più facilmente. Te ne sarai fatto una ragione, no? In fondo si tratta di 20 minuti al giorno. Basta prenderla con tranquillità. 20 minuti. Non lo so, mezz'ora. Ave Marie, insomma. Ma che è farsi una ragione? Il mio metodo è molto più efficace, non c'è bisogno neanche di farsi una ragione. Allora, io mi siedo in prima fila, d'ora in poi, capito? Uno dice, non ci va nessuno, e io ci vado. Tutti si stupiscono, uè, va in prima fila. C'è la conversione. Ma che conversione? Allora, e mi metto vicino al chirichetto, no? Quello che porta l'incenso. Sì, no? Sì. Mi sta vicino e respiro a pieni polmoni, no? Come se fossi in montagna. Cioè, tiro su tutto, no? Sì. E un paio di minuti entro in uno stato praticamente di allucinazione. Ecco. Una specie di estraniamento. Sì. Che mi sembra di essere fuori a giocare, no? Ah, e quindi 20 minuti di messa e non ho niente, no? 20 minuti di gioco diventano, vabbè. Cioè praticamente lui si strafà d'incenso per sognare di giocare a calcio nonostante stia lì 20 minuti. Ma scusa, ma cosa fai? Poi dici anche le preghiere, ti confessi, fai la comunione, tutto, come tutto. Tutto. Non mi faccio mancare niente. Una volta in preda all'incenso in trance, faccio tutto, no? Tutto mi piace, no? Faccio anche la comunione. Pensa che l'altro giorno proprio non ne potevo più. Quel giorno lì dico, oggi non ce la faccio. Quindi ho respirato direttamente ficcando il naso nel turibolo, no? Nel turibolo. Quella roba lì dove ci mettono l'incenso. Ah, ecco, il turibolo. L'incensiere, no? Quello è lui. Si chiama turibolo. Il turibolo. Ho visto su Wikipedia. Sì, è vero. E sono svenuto. Ma no, ma come? E mi hanno dato anche l'estrema unzione. Vabbè, tutti i sacramenti hai fatto. L'estrema unzione l'ho avuto solo io, Vabbè. Ma quindi vuol dire che anche il bambino Alberto... Forse anche lui... Ma come? Ma è qui, ma allora anche noi, ma forse tutti quanto, tutto il mondo è morto. Poi, senza alcun motivo. cos'è? Senza alcun motivo, bisogna fare qualcosa di straordinario. Tipo no? Dire qualcosa di intelligente qualche volta. Drago, perché la didascalia? Perché stiamo parlando dei nostri fumetti, fumetti di Chiedo Asilo, anzi, Chiedo Asilo a fumetti. Chiedo Asilo che dalla radio web diventa fumetti. Fumetto fruibile sul web, capito? Fruibile che, sul che web. Che trasversalità di media potete trovare su YouTube, su Facebook e sulla homepage di Radio 24. Ma sono molto migliori alla vista che alla spiegazione. Infatti, non so se però si per radio dire, si capisce. Vabbè, questo sarebbe l'annuncio, questo è l'allarme il theremin del venerdì. Perché il venerdì aveva bisogno di un animale più tecnologico. Il theremin, un animale. Va bene. Allora è venerdì, quindi bisogna salutare tutti, da Alberto Caserini a Salvatore Iorio a Chiara Mignemi, Maria Grazia Gusmano. Ma chi è sta Maria Grazia Gusmano? Ma tu continui a chiedere chi è questa Maria Grazia Gusmano. Accidenti, cappa, accidenti. Maria Grazia, se vuoi uscire con me stasera è venerdì. Ma se stai sul divano con Tito a guardare la TV, cioè cosa fai con Maria Grazia? Infatti non ci stiamo, mi dispiace Maria Grazia. Quando rinascerai cane, potrai stare con me il venerdì sul divano.